pensieri ferite, ai quanto felice. Oggi il padre io chiamo, in van egli non vuole più, in van egli non vuole più. Thank you.